I'm gonna go. We'll be right back. Son las 17 horas, 5 de la tarde con 18 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este día viernes 5 de octubre del año 2018. Escuchamos un poco de jazz, no, música de la nueva era con Jean-Michel Jarre. Continuamos con más música para usted que nos sintoniza. Tenemos ahora a Mina con su producción número 0. Neri, siamo neri dentro e fuori, animali rari nella notte, agili e sicuri. Neri, senza giunta di colori, mutabili nel cuore, nella pelle, come nei pensieri, complicati e desigenti, scegli bene gli argomenti, trova il senso e la misura, stacci dietro. Una dottrina, sfuggiti alla vetrina, quella luce ibrida e rubiana, veri da sembrare irreali, gli opposti ed i contrari di un tormento che non vuole ali. E come, dove, quando ti risponderà vento, mentre il nero ci riprova, siamo già canzone nuova. Pazzi siamo, pazzi di noi, perfetta intesa che poi non finisce di sorprenderci. Il gioco più avvincente che c'è è fare l'alba con te, inseguendo un giro armonico. Neri siamo neri, neri, non potrai sbagliarti tu, di facce così in giro non se ne vedranno più. Ieri eravamo così avanti che siamo ormai convinti che le rughe tocchino ai perdenti. Niente trucchi né misteri, qui c'è quello che non trovi. Strati was your Nero with you. Angelo, ti amo tu. Nero è il pensiero che ci libera. Lo scolorire hai più nero sublime che tu. Una bugia così astronomica. Respira el nero, escuta la anima.